Canto dodicesimo della Divina Commedia. Il Purgatorio di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto dodicesimo. Di pari, come buoi che vanno a giogo, n'andava io con quell'anima carca finché il sofferse il dolce pedagogo. Ma quando disse: lascia lui e varca, che qui è buon con la vela e co remi quantunque può ciascun pinger sua barca, dritto, sì come andar vuolsi, rifemi con la persona, avvegna che i pensieri mi vanesser echinati e scemi. Io m'era mosso e seguia volontieri del mio maestro i passi, ed amendue già mostravam come eravamo leggeri, quando mi disse: volgi gli occhi in giue, buon ti sarà per alleggiar la via veder lo letto delle piante tue. Come? Perché di lor memoria fia, sovrasepolti le tombe terragne, portan segnato quel che egli eran pria, onde lì molte volte se ne piagne per la puntura della rimembranza che solo a pii dà delle calcagne. Sì, vid'io lì, ma di miglior sembianza, secondo l'artificio, figurato quanto per via di fuor del monte avanza. Vedea colui che fu nobil creato più d'altra creatura, giù dal cielo, folgoreggiando scender da un lato. Vedeva Briareo, fitto dal telo celestial, giacer dall'altra parte, grave alla terra, per lo mortal gelo. Vedea Timbreo, vedea Pallade e Marte, armati ancora intorno al padre loro, mirar le membra dei giganti sparte. Vedea Nembrotto, a piè del gran lavoro, quasi smarrito, e riguardar le genti che nsennar con lui insieme foro. O Niobe, con che occhi dolenti vedi io te segnata in sulla strada, tra sette e sette tuoi figliuoli spenti. O Saul, come in sulla propria spada, quivi parevi morto in Gerboè, che poi non senti pioggia né rugiada. O folle ragne, si vedea io te già mezza ragna, trista in sugli stracci dell'opera che mal per te si fe. O Roboam, già non par che minacci quivi il tuo segno, ma pien di spavento, nel porto un carro pria ch'altri il cacci. Mostrava ancora il duro pavimento come al meone a sua madre fe caro parer lo sventurato adornamento. Mostrava come i figli si gittaro sovra Sennacherib dentro dal tempio e come morto lui quivi lasciaro. Mostrava la ruina il crudo scempio che fe Tamiri quando disse a Ciro: sangue si tisti ed io di sangue tempio. Mostrava come in rotta si fuggiro gli Assiri poi che fu morto Oloferne ed anche le reliquie del martiro. Vedeva Troia in cenere e in caverne, o Ilion, come te, basso e vile, mostrava il segno che lì si discerne. Qual di pennel fu maestro e o di stile che ritraesse l'ombre e gli atti, chivi mirar farien un genio sottile? Morti di morti, e i vivi parean vivi. Non vide me di me chi vide il vero quant'io calcai, finché chinato givi. Or superbite, e via col viso altiero, figliuoli d'Eva, e non chinate il volto, sì che veggiate il vostro mal sentiero. Più era già per noi del monte volto e del cammin del sole assai più speso, che non stimava l'animo non sciolto. Quando colui che sempre innanzi atteso andava, cominciò: drizza la testa, non è più tempo d'agir sì sospeso. Vedi colà un angel che s'appresta per venir verso noi, vedi che torna dal servigio del dì l'ancella sesta. Di riverenza gli atti e il viso adorna, sì che i diletti l'onviarci in suso. Pensa che questo dì mai non raggiorna. Io era ben del suo ammonir uso, pur di non perder tempo, sicché in quella materia non potea parlarmi chiuso. A noi venia la creatura bella bianco vestita, e nella faccia, quale par tremolando, mattutina stella. Le braccia aperse, ed indi, aperse l'ale, disse: venite, qui son presso i gradi, ed agevolmente omai si sale. A questo annunzio vengon molto radi, o gente umana, per volar su nata, perché a poco vento così cadi? Menocci, ove la roccia era tagliata, quivi mi batteo l'ali per la fronte, poi mi promise sicura l'andata. Come a man destra per salire al monte, dove siede la chiesa che soggioga la ben guidata sopra Rubaconte, si rompe del montar l'ardita foga per le scalee che si fero ad etade, che era sicuro il quaderno e la doga, così s'allent la ripa che cade quivi ben ratta dall'altro girone, ma quinci e quindi l'alta pietra rade. Noi, volgendivi le nostre persone, beati paupere spiritu, voci cantaron sì che non diria sermone. Ahi, quanto son diverse quelle foci dall'infernali, che quivi per canti s'entra e laggiù per lamenti feroci. Già montavam su per gli scaglion santi, ed esser mi parea troppo più lieve, che per lo pian non mi parea davanti. Ond'io: maestro, di, qual cosa greve levata s'è da me, che nulla quasi per me fatica andando si riceve? Rispose: quando i piche son rimasi ancor nel volto tuo, presso che stinti saranno, come l'un del tutto rasi, fianli tuo piede il buon volersi vinti, che non pur non fatica sentiranno, ma fia diletto loro esser supinti. Allor fec'io come color che vanno con cosa in capo, non da lor saputa, se non che i cenni altrui sospicciar fanno, perché la mano ad accertar s'aiuta e cerca e trova, e quell'ufficio adempie che non si può fornir per la verduta. E con le dita della destra scempie trovai pur sei le lettere che incise quel dalle chiavi a me sovra le tempie. A che guardando il mio duca sorrise. Fine del canto 12.